che dico, mi sarebbero stati antipatici in ogni caso, però che arrivassero un'ora dopo l'appuntamento mi dava fastidio. Ognuno aveva avuto una cosa molto importante da fare, come se la cena fosse lo spot tra un programma e l'altro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, quasi 8, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono delle cose che provano tutti e altre no. Ci sono situazioni, emozioni, attività, prodotti che hanno provato tutti e altri no. Il tartufo, ad esempio. Il tartufo non è una cosa che tutte le persone hanno assaggiato, un po' perché è raro e un po' perché ha un sapore particolare. Ma nemmeno una crociera extra lusso è una vacanza che tutti hanno fatto, per gli stessi motivi del tartufo. E poi invece ci sono delle cose che, volenti o nolenti, tutti hanno sperimentato sulla propria pelle. Il sapore che rimane in bocca dopo una sconfitta, ad esempio. O l'euforia che invece ti dà una vittoria, qualsiasi esse siano. Ma anche bere un bicchiere d'acqua fresca dopo una corsa, oppure svegliarsi da un incubo, innamorarsi, perdersi, ritrovarsi, sono tutte cose che sono comuni a tutte le persone. E tra queste sensazioni, tra le sensazioni che tutti prima o poi abbiamo sperimentato, ce n'è una. È quella che si prova quando ci si trova in una situazione che non ci appartiene. Una condizione in cui noi non ci riconosciamo, non capiamo quello che sta succedendo attorno. È la sensazione del sentirsi fuori luogo. Un paio d'anni fa ho partecipato ad una serata che il comune di Milano aveva organizzato per i neo diciottenni della città. Avevano mandato un sacco di inviti a tutti i ragazzi freschi di maggiore età per invitarli ad una festa nel parco di una villa, con tanto di rinfresco e di concerto. Tutto era gratuito. Si aspettavano qualcosa tipo 10.000 ragazzi. Era una specie di captatio benevolenze da parte del sindaco, o, detta male, una forma di campagna elettorale. Ma tant'è, non è questo il centro del discorso. Non chiedetemi cosa ci facessi là, perché nemmeno questo è il motivo per cui racconto questo episodio. Il motivo è un altro, ed è che di tutta quella serata io mi ricordo un particolare. Ed è che verso le 10 di sera è arrivata una coppia di fidanzati che avevano la stessa età di tutti gli altri ragazzi, avevano appena compiuto 18 anni. Però avevano qualcosa di diverso dagli altri. Erano eleganti. Erano troppo eleganti. Tutti intorno a loro erano vestiti come dei diciottenni che andavano ad una festa tra amici, o in una tavernetta, in un locale, fuori da scuola. Loro invece sembravano pronti per le nozze. Avevano evidentemente frainteso il tipo di festa. Probabilmente lo avevano scambiato per il ballo delle debuttanti o qualcosa di simile. Il risultato è stato che tutti li guardavano come fossero due extraterrestri. E alla fine loro hanno trascorso tutta la serata in fondo al parco, vicino ai bagni chimici, a litigare. Ecco quello che per me è il massimo esempio della condizione di sentirsi fuori luogo. Se a voi sono capitate cose che vi hanno fatto sentire più fuori luogo di questa, io sono qui. E il numero è sempre quello, eh? Il numero è sempre 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666 per gli sms. E già che ci siamo, crepi l'avarizia, anche la mail. Io sono qui, @radio24.it. Però avete presente la sensazione di cui stavo parlando, no? Sono quei momenti in cui voi vi sentite talmente diversi da tutto quello che vi sta intorno che inevitabilmente diventate degli osservatori. E quando si è degli osservatori non si può fare altro che giudicare, quindi tutto quello che ti capita davanti agli occhi ti sembra una boiata più o meno, comunque una cosa fuori luogo, una cosa che ti sembra, proprio perché ti è lontana, ti sembra che abbia qualcosa non di sbagliato, però sì, che non appartiene al tuo modo di vedere il mondo. Ecco, quella sensazione lì la si prova magari una volta nella vita, è difficile, la si prova molto più spesso, però capita di provarla nell'arco di una vita. Ci sono alcuni che addirittura la provano tutti i giorni, perché magari si trovano fuori luogo nel posto in cui vivono, nel posto in cui lavorano, con la persona con cui stanno. 800240024 349-238-6666. Lorenzo, ad esempio, mi scrive: quella volta in cui sono stato unico europeo ad una tavolata di 25 cinesi, per non offenderli ho dovuto brindare con ognuno, ne sono uscito devastato. Luca invece: sono stato l'unico ubriaco al pranzo di matrimonio di mia cugina con tutti i parenti, avevo 14 anni, gli amici di mia cugina hanno pensato bene di farmi bere solo vino rosso, girovagavo senza stare in piedi, tutti i parenti mi guardavano, io facevo il segno della pace pace con le due dita a tutti quanti. Luca, spero che non abbia più 14 anni, siano passati da un po'. Giorgio, unico ad avere una Clio del 2001 scrostata sul tettuccio quando tutti in università arrivano con una Mini o una 500 fiammante. Tommaso, unico amante della natura in compagnia di amici amanti delle discoteche. Poi Silvia mi scrive: tutte le mattine alle 6:30, quando mi fermo al bar a fare colazione, ci sono solo uomini. Apro la porta e tutti si zittiscono. Per fortuna l'anziano barista ha capito l'imbarazzo e mi ha preso come figliola. Dopo i primi 20 secondi lui comincia a fare battute e tutto torna normale. Quella sensazione lì, quella di sentirvi fuori luogo, qualsiasi volta l'abbiate provato, se la state provando magari in questo momento o se l'avete provata di recente, il numero è quello: 80024 0024 oppure 349-238-6666. A me è capitata di provarla proprio ieri sera. Questa volta non ha nulla a che fare la gelosia di cui vi raccontavo in questi giorni a proposito di Nathalie o del suo lavoro. No, questa volta ha a che fare con gli amici di Nathalie, con il loro diciamo substrato culturale, con il luogo da cui vengono e soprattutto con la loro età. E che è così, ed è che nell'era di Facebook la parola amico ha cambiato significato. La si associa troppo facilmente alla parola conoscere. Vuoi conoscere gli amici di Matteo Caccia? Oppure Matteo Caccia conosce Tizio, vuoi diventare suo amico? Schiaccia un pulsante e voilà. Solo che noi abbiamo degli amici, diciamo così, normali, se siamo fortunati, oppure dei conoscenti. E le due cose sono molto diverse. Insomma, non voglio rubare il lavoro a Tiziano Bonini, ma la questione è che di solito gli amici degli altri è difficile che diventino anche amici miei. Sono invidioso di chi è capace di farsi amici in ogni momento della propria vita. Io sono uno che si è fermato al massimo all'università e che quelle tre o quattro persone che sente quasi sangue del suo sangue sono comunque state compagni di gioco di quando ero piccolo. Non lo so se è normale, ma a me capita così. E per questo ieri sera, messa tra parentesi la questione della gelosia per un momento, ho accettato di uscire a cena con gli amici di Nathalie. Sì, perché anche le donne hanno degli amici. Che lo so, sembra un'assurdità da dire, ma vi assicuro che molti maschi non comprendono che i rapporti umani tra donne possono andare oltre a ciò che viene propinato da Sex and the City, e quindi qualche chiacchierata oscena su robe sessuali, amanti troppo rapidi, su matrimoni che non sanno da fare, su mazzi di rose vestiti da sera. E in più, le donne, e anche questa a volte non sembra vero, possono perfino avere degli amici maschi, che ne dica Billy Crystal, che non sono solo ex fidanzati, ma magari sono semplici persone con cui condividere idee, passioni, ricordi, ridere delle stesse cose, confidarsi, confrontarsi, insomma, degli amici. Le mie fidanzate non si sono mai permesse di propormi o di propinarmi i loro amici, perché sapevano che li avevi trattati male. E hanno fatto bene. Ma ora io sono diverso. E Nathalie mi ha subito dichiarato che sarebbe stata fiera di presentarmi alla sua ristretta società. È stato un grande sforzo accettare l'invito a cena. Ma ho pensato che fosse un atto di fiducia nei suoi confronti, che un po' glielo dovevo, e che non potevo andare avanti per sempre con la mia misantropia. Inoltre la cena alla fine era da noi, quindi me la giocavo in casa. Potevo cucinare e concentrarmi sul tempo che passava in attesa di poter tornare alla PlayStation che mi avevano regalato per Natale. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. You're not lonely without me. Cucinare per gente che non conosci è un casino. Il fatto è che non conosci i loro gusti, non sai se hanno allergie, fanno diete particolari, se sono vegetariani, crudisti. Insomma, ho dovuto chiedere a Nathalie, ma lei è talmente sulle nuvole di questi tempi che si è dimenticata di avere un'amica celiaca. Fortunatamente lei si è presentata per prima con una porzione di pasta senza glutine. È stata subito simpatica, anche perché è arrivata puntuale. Cosa che non si può dire degli altri. Una manica di scappati di casa, come le chiamerebbe mia nonna. roba che io al confronto sono una persona seria. Mi sarebbero stati antipatici in ogni caso, ma che arrivassero un'ora dopo l'appuntamento e senza nemmeno grossi sensi di colpa mi ha dato fastidio. Ognuno aveva avuto una cosa molto importante da fare, come se la cena fosse uno spot tra un programma e l'altro. La cosa buona è che almeno non erano banali. C'era una coppia etero, una lesbica, la celiaca, una moglie senza marito che durante la settimana vive a Lione, una single sciantosa di quelle con l'extension e un single omosessuale che però ancora era ignaro di esserlo. Nessuno di loro superava i 30 anni. Però mi pareva tutta gente che aveva bruciato la candela da entrambe le parti, quindi non provavo invidia per la loro età. La serata è anche sembrata andare bene, ma io mi sono comunque annoiata a morte. Tutti presi dalle loro personali beghe amicali, perché non è gente che si vede tutti i giorni, Natalia e i suoi amici non hanno quasi mai smesso di parlare delle vacanze che avevano fatto insieme anni prima, in India, in Cambogia, in Yemen, in Messico, che potevano anche essere argomenti interessanti in teoria, se non fosse per il fatto che loro ricordavano solo fatti privati, tipo quel viaggio in pullman, quella stanza all'albergo con gli insetti, l'esperienza col peyote, o la cascata con la pioggia, la guida che aveva investito una mucca. Tutte cose che se non c'eri non hai niente da capire e soprattutto non hai niente da dire. Io mi sono accontentato dei complimenti per il mio brasato e ho solo cercato di collegare i nomi alle facce per chiedere magari più avanti a Natalie qualcosa di significativo. Carla, la lesbica, Veronica, la single, Paola, la moglie senza marito, Giordano, l'omosessuale che non sa di esserlo, e poi Marco e Vittoria. Sul finire della serata, Veronica, che non ha più di 23 anni secondo me, mi ha guardato di sbieco e mi ha detto: «Scusami, ma tu sei Matteo?» Eccoci, ho pensato, questa adesso è strafatta di crack e non me ne sono neanche accorto. Invece no, era la classica domanda retorica che introduce un segreto segretissimo. Io gli ho detto di sì, che ero io, e lei mi ha detto che lo sapeva e che forse io non mi ricordavo di lei, ma, e lì io per un attimo me la sono davvero fatta sotto, ma lei era la sorella di Agnese. E il nome Agnese non mi diceva niente, per cui lei ha precisato che io e Agnese eravamo stati fidanzati al liceo. Ma certo, Agnese, ma me la ricordavo benissimo. E allora via, giù sorrisi sollevati, aneddoti sul tempo che fu. Finita la cena mi è rimasto un magone, che era molto di più della cattiva digestione. Era quel senso di vuoto di quando ti accorgi che quando una storia finisce, a te non rimane in mano niente. Che poi forse è giusto così, perché gli innamoramenti di quando si è piccoli straziano il cuore, però non possono fare troppi danni, sennò uno non cresce più e vive nella memoria delle storie finite, e finite tutte male ovviamente. E chissà cos'è rimasto ad Agnese di quella storia. Forse altrettanto niente. E sarebbe anche giusto così. Mi è dispiaciuto fare questa figura da musone. In fine serata, insomma, ieri sera ero uscito da quella condizione di osservatore ed è venuto fuori il vecchio che c'è in me. Quello che ogni tanto comincia a riflettere su cosa ha costruito nella sua esistenza, su come verrà ricordato dagli altri, che lo so che è un po' presto, e in più io non fumo e non bevo, cosa che dovrebbero aumentare la mia aspettativa di vita, ma non sono un ottimista per natura e comincio a vedermi dei capelli grigi sulla testa, insomma avete capito di cosa parlo. È che questa cosa degli amici degli altri non mi va giù. Per me alla fine questa gente è uscita estranea, come è entrata. Anche se ci siamo tutti baciati sulle guance per ben 3 volte. E anche se una era la sorella di Agnese. Perché a volte le persone non ti lasciano niente. E va bene anche così. Dice 24 minuti, questa è Radio 24, il programma si chiama Io sono qui e io sono Matteo Caccia, e al 349-238-6666 sono arrivati un po' di messaggi di persone che si sentono spesso fuori luogo o nel posto sbagliato. Prima però dei messaggi ne arriva sempre uno che non è la prima volta che arriva e io non capisco esattamente cosa vuole da me. Caccia, hai tagliato la barba? Me lo scrive spesso questo ascoltatore. Non so esattamente che problema abbia lui con la mia barba. La risposta è no, però. E comunque non lo farò perché tu me lo chiedi. Allora, cose imbarazzanti che mi fanno sentire fuori luogo: suonare e cantare da solo un pezzo di Bobo Rondelli ad un festival heavy metal. Grande imbarazzo, ma anche grande soddisfazione. Matteo da Prato. Bobo Rondelli mi sfugge chi è. Ottavo Padiglione. È livornese, mi dice Tiziano. Poi magari troviamo qualcosa per ricordarcelo. Mi capita spesso, poi mi attacco al motto che solo i pesci morti seguono la corrente. Ciao Fabrizio. La volta in cui durante un'escursione la mia amica mi ha detto che era nudista, e così tutti gli altri. Non potevo scappare e per sentirmi integrata mi sono tolta la parte sopra del costume. È stato orribile, non ho mai perdonata. E poi ancora, e qui arrivano chiaramente i genitori della fidanzata, a pranzo con i genitori di una mia ex ragazza, loro membri del Rotary Club, gente in vista, mi hanno elencato tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno e che fanno. Poi quando ho detto che i miei vivono in affitto e hanno una Corolla, inteso la Toyota Corolla, si sono concentrati dati per un impegno improvviso. È stato deprimente, Mirko. Oggi però sul profilo Facebook mi è arrivato questo messaggio qua, a proposito di situazioni in cui ci si sente fuori luogo. Alessio: mi sono iscritto a 30 anni all'università, mi interessavano le materie e sentivo il bisogno di approfondire alcune mie lacune, conseguendo anche una laurea. Sento una discreta distanza con i miei compagni di classe, che hanno tutti 20 anni, a causa del fatto, oltre che per l'età, che tutti questi ragazzi sono molto idealisti e io, forse invece per la mia età e per l'esperienza, tendo a smorzare molto. Faccio il fotografo e mi sono iscritto alla facoltà di Scienze della Pace. Piuttosto di tanti corsi di laurea inutili in Scienze delle Comunicazioni o in altre amenità, amenità. Pronto Alessio? Pronto Matteo? Senti, ma Scienze della Pace? Vogliamo, allora, parliamone. Per la pace. Scienze per la pace. Forse così a sentirlo è peggio ancora, Alessio. È uno dei famosi corsi inutili. No, non lo so se è inutile, però io non lo so, però tu spiegami, insomma, abbiamo sentito la voce del ministro, io non ho idea di cosa sia esattamente, me lo spieghi prima di spiegarmi poi perché ti senti fuori luogo? Allora, esattamente che cos'è non l'ho ancora capito bene neanch'io. Comunque diciamo che dovrebbe preparare una serie di operatori per le zone di conflitto calde. Cooperazione più internazionale, meno. Più o meno, giusto? Specifico. Alessio, mi sa che devi stare fermo, altrimenti cade la linea, ti sento male. Pronto Alessio, ci sei? No, non c'è più, abbiamo perso Alessio. Pronto? Pronto? Ah, sì. Ci sono? Sì, ci sei. Alessio, sì. Senti, dopo Scienze per la Pace, andiamo al dunque. Spiegami la situazione imbarazzante in cui ti trovi con persone che hanno 20 anni e tu invece ne hai 10 di più. Il fatto che com'è che li vedo? Li vedo molto idealisti, molto, come si suol dire, comunistelli, cosa che anch'io sono. Anche tu sei un po' comunistello. Sì, però diciamo un po' di disilluso, molto più realista. E poi il fatto, cioè, Alessio, è come dire che essere comunistelli è una roba da ragazzi, giusto? Poi si cresce, è una roba che passa con gli anni. Sì, no, vabbè, ma no, non lo voglio che condannare, però ogni tanto mi ci trovo in disaccordo su tanti punti di vista, anche proprio perché ci sono questi 10 anni di differenza dove rivedo in loro quello che ero io 10 anni fa. Senti, ma li frequenti anche fuori o a questo punto li limiti solo alla frequentazione universitaria? No, li frequento anche fuori, per mordercelo, però diciamo non assiduamente come è la cerchia dei tuoi amici. Alessio, mi dici solo che tipo di fotografie fai, che mestiere è il tuo? Faccio promozione per aziende farmaceutiche, okay. Stock, matrimoni, insomma, un po' di tutto. Scusa, cosa c'entrano i matrimoni con le aziende farmaceutiche? Perché bisogna raccattare soldi. Ok. Quindi diciamo, nel grande calderone della tua esperienza, Alessio, c'è la Scienze per la Pace, matrimoni e fotografie per le aziende farmaceutiche. Vale un po' tutto. Sì. Ti ringrazio Alessio, buona giornata. Dai. Ciao, anche grazie. A te, buona giornata. Io sono qui. Anche nella foto di oggi siamo in una città. È una città tipicamente italiana, lo si vede dalle cupole e dalle torri, e a giudicare dalle torri si capisce anche in che città siamo. Siamo a Bologna. Grandi foto di città in questi giorni. Io sono qui. È Bologna, è l'alba, oltramonto, c'è un pochettino di foschia e la luce è tutta rosa. Magda Lattanzi, 36 anni, sono salita fino a San Michele in Borgo per guardare Bologna immersa nella nebbia. Io sono qui. Tra l'altro è arrivato un messaggio proprio all'inizio del programma che ci diceva che in centro a Bologna è da stamattina che non si sente Radio 24. Noi faremo di tutto, ma già stanno facendo di tutto i tecnici della radio per risolvere questo problema. 349-238-6666. La mia amica Chiara è andata a una festa dove c'era la ex del suo fidanzato e lei era l'unica vestita in maschera, il viso verde da extraterrestre. E ce n'è un'altra simile: partecipare con tanto di baffi finti brutti ad una festa in maschera ed essere l'unico in maschera. Patrick, a 3 anni ho bevuto di nascosto tanta Coca-Cola. Effetto maxi rutto in pubblico, era la festa dei 18 anni di mia sorella. Andiamo però a sentire le telefonate che oggi non abbiamo tantissimo tempo. Andiamo da Emanuele a Bologna. Pronto Emanuele? Ciao, ciao Matteo. Allora non è vero che non si sentirà di 24 se si chiami da Bologna? Perfettamente, era al centro di Bologna. Benissimo, raccontami la volta in cui sei steso proprio fuori il luogo. Allora, cena di lavoro, nel quale io avevo sostituito un'altra persona all'ultimo momento, tutti parlavano di qualcosa di cui io non sapevo assolutamente nulla, è un argomento molto, molto, molto specifico, erano tutti molto coinvolti e io non sapevo veramente cosa dire. Ma perché non sapevi niente tu, scusami? Perché avevo sostituito la persona che doveva perché, andare. Perché eri nuovo? Sì. Qual era allora il lavoro? Il lavoro è sempre il mio, perché noi ci conosciamo, insomma, la promozione di queste fiere, di queste cose. Ah, ok. Senti, come l'hai risolta, Emanuele? L'ho risolta con l'unico under 50, cioè l'unico ragazzo di 30 anni di fianco a me, visto che eravamo a Londra, gli ho chiesto, ma questo Bale è veramente forte, il Tottenham lo vince lo scudetto, allora da lì noi abbiamo cambiato argomento, noi due, grande. Da quel momento. Il calcio ti risolve sempre la serata. Emanuele, grazie mille, buona giornata. Un abbraccio. Ciao, bye. Ciao. Andiamo a Verona da Oscar, pronto? Pronto, eccomi qua. Ciao Oscar, sì, ciao Verona, stavo dicendo, buonanotte. Ciao. Oscar, senti, tu ti senti in imbarazzo quando porti le tue figlie ai compleanni? Sì, io ho due figlie di 6 e 7 anni, per cui una settimana c'è qualche compleanno di qualche compagno di classe. E generalmente chi porta i figli ai compleanni sono le mamme, per cui mi capita sempre di trovarmi in questi oratori, piuttosto in questi posti. Per questi, e sono solo donne? E sono solo donne, tutte, e ti sguardano. Cioè, ma Oscar, perché tua moglie non porta le tue figlie? Perché per via di lavoro io sono libero il pomeriggio, okay. Lei il pomeriggio lavora, per cui Oscar, ti ringrazio. C'hai le figlie con te, tra l'altro, in questo momento? Sì. Dove le porti? Dove le porti? No, adesso a casa. Ah, okay. A casa fare i compiti. Oscar, grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Mi sono sentita fuori luogo quando il mio ex mi lasciò e mi fece scendere dalla macchina fuori dalla stazione ferroviaria. Tutti guardavano e volevo scomparire. Che carino il tuo ex. Andiamo da Marco da Cagliari. Pronto, Marco? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, hai voglia di raccontarmi questa storia che non è male? Sì, quella... sì, assolutamente. Unico non massone a una cena di massoni. Brutto, direbbe Paul Villaggio, di un tragico errore. Ma come ti sei trovato a una cena di massoni e come sapevi che erano massoni? Beh, allora, che erano massoni alcuni si sapevano, ma poi la cosa era ufficiale. Io mi sono trovato perché venne operato da un medico massone, il quale festeggiò una sua ricorrenza e invitò medici, politici e giornalisti massoni. Io ero invece un suo paziente, probabilmente pensavano che fossi massone anch'io, scoprii lì di essere l'unico presente, io sono un giornalista, a non essere massone. Ma senti Marco, di cosa parlano i massoni ad una cena di massoni? Si divertono tantissimo, parlano di medicina, parlano di politica e fanno tanta musica. Ho capito. C'era addirittura una band di medici massoni che faceva delle bellissime canzoni. E come si chiamava la band di massoni? Oddio, adesso non me lo ricordo, però aveva un nome più legato alla medicina. Senti, invece, poi ti saluto, proprio così a bruciapelo, tu che ci sei stato a cena, ma a che servono i massoni? Ah, ho ritenuto meglio non chiederlo, ho deciso di mangiare quella sera. Marco, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie. Situazione imbarazzante, essere in 3 a letto per mancanza di posto e i 2 amici che fanno l'amore, con te sveglio. Mi è capitato di sentirmi fuori luogo ad una presentazione di multilevel marketing a Torino. Tutti urlavano come pazzi, io no, Giovanni. Mi sfugge cos'è il multilevel marketing. Sono quelle cose a piramide, piramidali. Oh, ok, perfetto. Però non capisco perché tutti urlassero. A proposito di imbarazzo, di sentirsi fuori luogo, tra le varie mail che arrivano a io sono qui, @radio24.it, in cui ci sono, e sono quelle che preferisco, piccoli racconti di vita, piccoli episodi che raccontano di dove siete voi in questo momento o dove siete stati, mi è arrivata una mail di una ragazza che di mestiere fa la webcam girl. Caro Matteo, nel dicembre del 2008 il mio ragazzo è stato licenziato e siamo rimasti senza entrate. Allora mi sono messa subito a cercare lavoro. Poi, parlando con un amico di questo mio problema, lui mi ha consigliato di andare su un sito di webcam girl. Mi ha assicurato che una sua amica ci lavorava e che guadagnava 100 euro al giorno. All'inizio non credevo a quello che mi diceva, così ho pensato di provare per vedere se era vero. Ammetto, i primi giorni per me è stato abbastanza difficile. Stare davanti ad una webcam e mostrarsi a qualcuno che non conoscevo era piuttosto complicato. Su quei siti, per vedere e per toccare realmente i soldi, devi raggiungere un minimo, e su quella chat il minimo è di 300 euro. Ho fatto una gran fatica a raggiungere quei 300 euro. Ci ho messo forse 10 giorni, però alla fine ce l'ho fatta. Dopo aver ricevuto il primo pagamento, mi sono detta: perché non continuare? Comoda, da casa. Stabilisco io gli orari in cui lavorare, non devo dar conto a nessuno. Così ho continuato per quasi tutto il 2009, guadagnando dai 1000 ai 1800 euro al mese. Poi, nel giugno del 2009, ho lasciato così, dall'oggi al domani. Solo che poi, nel dicembre del 2009, io e il mio ragazzo ci siamo trasferiti al nord. Lui lavorava e io nel frattempo cercavo qualsiasi lavoro senza mai trovare nulla, perché non ero diplomata. Allora mi sono detta: sai cosa? Ricomincio con la webcam. E rieccomi qui, a stare sulle cam, lavorando comodamente da casa e senza fare nulla di concreto. Poi il bello di queste chat è che fai amicizia, parli, scherzi e gli utenti si affezionano a te e così ti cercano tutti i giorni. Matteo, non lo so se questa mail la leggerai oppure resterà solo un discorso tra me e te. Comunque, ti ringrazio. Ciao, Tatiana. Piccoli episodi di vita vera. Io sono qui, @radio24.it, e tutta questa storia è vera, o perlomeno è arrivata come tale. L'unica cosa che non era vera era il nome Tatiana, che mi è sembrato carino non raccontare. È arrivata una telefonata che purtroppo non abbiamo potuto prendere, però il racconto di Marco da Roma era questo: ho avuto un problema di diarrea in montagna, mi sono dovuto pulire alla fontanella con un amico. Dopo essermi pulito mi sono accorto che dietro di me c'erano diverse ragazze che avevano visto tutta la scena. Ma l'ultimo messaggio, l'ultimo, di Giordano, dice: stasera dobbiamo dire ai futuri suoceri che la mia lei è incinta. Spero di non sentirmi troppo fuori posto. Lo spero anch'io per te. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Viola Bottoni e Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?